Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Per ritrovare la voglia di vivere, due ultraottantenni pieni di acciacchi decidono di attraversare gli Stati Uniti in camper, percorrendo la mitica Route 66. È la storia di In viaggio contro mano, l'ultimo romanzo di Michael Zadurian. Provateci voi a diventare vecchi e toccare con mano che non è vero che il tempo è circolare e che ritorna, come dicono certi filosofi. E se siete una coppia sposata da quasi 60 anni, capace che vi salti il ticchio di salire sul camper e prendere il volo verso Disneyland. Ovviamente contro il parere di figli e dottori, che cominceranno a strillare come aquile. L'ipotesi è plausibile ed è anche la trama dell'ultimo romanzo di Michael Zadurian. Si intitola In viaggio contromano e ha un sottotitolo, The Leisure Seeker, che, come direbbe un venditore di veicoli usati, è in sé una garanzia. È infatti anche il nome di un modello di motorhome prodotto dalla Winnebago di Forest City, Indiana. Il lettore esperto ha già capito che i nostri eroi, entrambi oltre gli 80 e male in arnese, lei piena di acciacchi, anzi decisamente malata, e lui che non ci sta più con la testa, morbo di Alzheimer, hanno intenzione di prendere la gloriosa Route 66 e poi via col vento. Inaugurata nel 1926 e oggi sorpassata da più veloci autostrade, la Route 66 fu la prima via diretta e dal 1938 completamente asfaltata verso il West. Nel 1946 Bobby Troup le dedicò una canzone resa famosa da Nat King Cole, Get Your Kicks on Route 66, e i nostalgici che non hanno fretta ancora la percorrono alla ricerca di un loro specialissimo tempo perduto. Magari come fanno i nostri vecchietti, lei si chiama Ella e lui John, portandosi dietro le diapositive degli infiniti viaggi d'antan per proiettarle la sera, prima di accucciarsi nel camper, sullo schermo di un logoro lenzuolo matrimoniale all'aperto e rivedere le immagini di un'intera vita. Gli amici, quelli con cui sono stati in vacanza ogni estate, quelli sì, davvero scomparsi, e i figli, i bimbi, un maschio e una femmina, a loro volta ormai vicini alla pensione, che minacciano continuamente al telefono di mandarli a cercare dalla polizia, per sentirsi però sempre rispondere che nessuno li può arrestare perché la vecchiaia non è un reato. Il viaggio comincia a Detroit, nel Michigan, dove Elle e John sono sempre vissuti, attraversa l'Indiana, l'Illinois, il Missouri, il Kansas, l'Oklahoma, il Texas, il New Mexico e l'Arizona. E termina ad Anaheim, in California. I nomi degli stati sono anche i titoli dei 10 capitoli di una novella picaresca che finisce quando non c'è più nulla da dire o da fare. Dopo che lui e lei hanno emblematicamente visitato Disneyland in carrozzella e dopo che sono saliti in cielo, su, sempre più su, a bordo della ruota panoramica, per una volta si tratta, non sta a noi dire quale sia, ma ci si può credere, di un vero e proprio happy ending. In viaggio contromano è anche una storia alla Bonnie and Clyde, per il semplice fatto che i due, e soprattutto lei, conciati come sono, rischiano di continuo la vita. Ma niente paura, i nostri sono pronti a resistere e sono armati di medicinali per il corpo e di una bottiglia di Canadian Club per lo spirito. Oltre che, non si sa mai, di una pistola, perché sulla strada si possono fare brutti incontri. Teppisti armati, per esempio, si fermano fingendo di aiutarti a cambiare una gomma e poi tirano fuori il coltello e cercano di portarti via non solo i pochi soldi che hai in tasca, ma anche l'anello matrimoniale. E la cosa, bisogna dire, nel libro succede davvero. Non è però quello il momento peggiore. C'è infatti l'incontro con un sospettoso poliziotto, dimostra 13 anni, si è fatto un taglietto sul mento radendosi, il che probabilmente avviene due volte al mese, il quale li ferma per una sbandata del camper e potrebbe, lui sì, arrestarli. Perché è un reato federale portare un'arma da uno stato all'altro. E c'è, soprattutto, l'episodio in cui entrambi cadono a terra, in un parcheggio, di notte, e non c'è verso che riescano a tirarsi su. È la moglie che pensa a tutto e provvede a tutto, ma se appena si distrae, il rischio è che il marito si allontani. Potrebbe perdersi, e un paio di volte succede, senza sapere né dove né da dove viene. La malattia gli permette solo di riconoscere lei e casa sua, che sono però la stessa cosa. Casa, per lui, è dove c'è lei. Ciononostante, è John che guida il camper in questo viaggio, come ha sempre fatto in passato. Era un tecnico della General Motors ed è cresciuto nella città delle automobili. Ancora adesso è capace di entrare immediatamente in sintonia con qualsiasi oggetto a motore. Arrivato a Disneyland, impara subito come funziona la carrozzella per gli anziani e in un battibaleno, vroom, è in grado di partire e perdersi tra la folla. In viaggio contromano ha un titolo che si compiace di sembrare trasgressivo. Ma la chiave di lettura di questo spartito, americano che più americano non si può, si trova circa a metà strada. Ed è un pensiero di Ella. Stavo lì seduta davanti a Leisure Seeker, sapendo che questa, proprio questa qui, era la mia vita. Ero Ella Rubina, moglie di John, madre di Cindy e Kevin, nonna di Lydia e Joseph. Credo che nulla di clamorosamente bello o brutto sia mai capitato nella mia vita. Volevo soltanto la mia casa, l'amore e il benessere dei miei cari. Nient'altro. Ero consapevole di non essere su questa terra per una ragione particolare, ma ero lì ed ero contenta di essere lì. Era un momento perfetto. Quel che R.W. Emerson intende quando afferma che ogni punto della realtà è il centro del mondo e ha come circonferenza l'infinito. Avete ascoltato la lettura della recensione di Luigi Sampietro del nuovo libro di Michael Zadurian, intitolato In viaggio contromano, dall'inserto Domenica allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Sulle pagine di Vanity Fair, Marina Cicogna traccia un ritratto di Susanna Agnelli, scomparsa il 15 maggio. Si diceva che Susanna Agnelli da ragazza fosse sempre in competizione con Virginia Bourbon del Monte, sua madre, e non con i fratelli o le sorelle, con cui aveva rapporti periodicamente più o meno prossimi, più o meno conflittuali. Di affetto visibile o esteriorizzato non si parlava nemmeno. Eppure la tenerezza e la profonda comprensione che legava Suni a Gianni era palpabile. Non scambiavano gesti né occhiate, non ce n'era bisogno, si capivano perché respiravano la stessa aria un po' rarefatta, ma molto trasparente. Gianni era più cortese, forse più narciso, non più paziente ma più educato. Susanna, se si annoiava di conversazioni che giudicava sciocche o inutili, poteva essere di una crudeltà tagliente. Eppure, se la stessa persona che aveva trattato con superbia la sera prima aveva bisogno di lei la mattina dopo, si precipitava ad aiutarla con lo stesso slancio. È quasi sempre vero che invecchiando le persone si ammorbidiscono e forse anche lei negli ultimi anni era diventata più riflessiva. La sua insofferenza restava comunque evidente, come la semplicità, i modi diretti e l'intelligenza acuta. Sotto un'apparenza un po' severa, i suoi sentimenti e i suoi slanci erano totalmente femminili. L'amore senza discussione verso i sei figli, ma anche i trasporti spesso passionali che l'hanno accompagnata tutta la vita e la grande fedeltà verso i pochi, a volte imprevedibili, amici che aveva scelto e che di frequente erano quelli che vengono chiamati i vecchi amori. Aveva una maggiore difficoltà di relazione con le donne, che si dividevano in due categorie, quelle da proteggere e quelle che la divertivano. Il resto la interessava poco. Per i figli è stata una madre forse a volte difficile, selettiva, ma sempre presente, un punto di riferimento assoluto in cui riflettersi e con cui misurarsi. Ha fatto di tutto. Oltre che madre, moglie e amante, è stata crocerossina, deputato, benefattrice, scrittore, sindaco e ministro. Per sé ha organizzato case bellissime, con un'attenzione maniacale alle cucine, sempre perfette e all'avanguardia. Ricordo quella di Venezia, enorme, bianca, così bella che Hubert de Givenchy volle a ogni costo comprare l'appartamento. Susanna Agnelli non è mai stata una donna soddisfatta, tantomeno di quello che lei stessa aveva fatto e del molto che aveva ottenuto. Forse proprio in questo sta la sua grandezza. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Marina Cicogna, La vera grandezza di Suni la scontenta, dal numero 21 del settimanale Vanity Fair.